Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 23. What don't kill you make you more strong. Il sole era ancora basso sull'orizzonte quando Lowker atterrò a Mogadiscio, ma già faceva sentire la sua potenza. Non appena aperto il portellone, la puzza di asfalto arroventato e gomma bruciata invase le narici di Mirko e di Drago mentre scendevano la scaletta. Alla loro destra il blu dell'oceano e a sinistra un paesaggio brullo e cementificato li accolsero in un abbraccio ambiguo. L'atmosfera generale era squallida. Drago vide uno scorpione fermarsi su una roccia a pochi passi di distanza da lui. Sembrava che lo stesse salutando con il pungiglione alzato. Non è il giardino dell'Eden, disse Mirko guardandosi intorno. Una persona prostrata a terra li aspettava accanto a un pick-up rosso ridipinto almeno un centinaio di volte. Ecco il comitato di benvenuto con la macchina, però questa volta ce ne andiamo in giro da soli. Salirono in auto senza badargli e sgommarono via. La città iniziava appena fuori dall'aeroporto. Un basso orizzonte di case e mura diroccate, fra le quali ogni tanto spuntavano ciuffi verdastri di alberi dall'apparenza malaticcia. Il silenzio e la puzza che stagnavano nelle strade rendevano l'ambiente spettrale. Solo la polvere e le tende spostate dal vento animavano il paesaggio. In cielo grandi ali nere volteggiavano lente. Guidarono lungo una larga strada fiancheggiata da un'interminabile serie di casette di due piani crivellate da colpi di ogni genere. Si sarebbe potuto scrivere un'enciclopedia sui vari tipi di armi solo osservando i segni sui muri. L'intero campionario dell'ingegno omicida umano doveva essere stato usato in quella città. Gli unici colori presenti erano un grigio marrone uniforme di sporcizie e sangue che ricopriva strade e case, il verde malato degli arbusti che spuntavano indifferenti un po' ovunque e il blu del cielo, che sembrava l'unica cosa giusta di quel posto. Anche la strada sulla quale viaggiavano era deserta. I soli veicoli che vedevano erano le carcasse abbrustolite sparse qua e là come se fossero stati giocattoli abbandonati da un bambino gigante che si era divertito a dargli fuoco e a distruggerle con violenti scontri. Alcuni cani si scagliarono improvvisamente verso il pick-up, latrando e sbavando fra i denti digrignati. Drago ebbe un sussulto e accelerò l'andatura fino a lasciarli indietro. Mirko si ritrovò ricoperto in un istante di sudore freddo e pelle d'oca. Nessuno dei due parlava. Imboccarono una strada ancora più grande che pareva allungarsi diritta per decine di chilometri. Era come guidare in autostrada il giorno dopo la fine del mondo. Ora costeggiavano il bordo della città. Alla loro sinistra una distesa di terra arida dal colore rossastro. Alla loro destra il panorama monotono di ruderi abbandonati senza segni di vita. Viaggiarono in silenzio per alcuni minuti. L'immenso cielo africano incombeva pesante, quasi sul punto di cadere sulla terra. Come un miraggio in lontananza, scorsero dapprima una nuvoletta di polvere che si alzava lenta e rossastra, poi un brillio che, sebbene troppo lontano per essere riconosciuto, doveva per forza appartenere a qualche tipo di veicolo. Drago guardò Mirko e accelerò per quanto le vibrazioni del pick-up glielo consentivano. In breve arrivarono all'altezza del punto in cui si trovava il veicolo che avevano avvistato. Alla loro destra si ergeva imponente l'inconfondibile sagoma di quello che poteva solo essere uno stadio. Drago svoltò, sollevando un turbine di polvere. Nel piazzale in fondo alla strada erano parcheggiate diverse automobili e furgoncini, non meno mal ridotti di quello su cui stavano viaggiando. L'ingresso in cemento armato dello stadio e le alte torrette con i riflettori rendevano il posto più simile a un campo di concentramento che a un luogo sportivo. Scesero dal pick-up e sotto il sole, ancora una volta, si sentirono subito schiacciati dalla massa d'aria calda che premeva da ogni dove. Mirko si affrettò a indossare un berretto da legionario che gli copriva anche il collo e si sbottonò la camicia coloniale sbuffando. «Un inferno più freddo, no, eh?» Non mi risulta che al freddo la gente abbia tanta voglia di ammazzarsi, gli rispose Drago. In giro non si vedeva nessuno, ma la presenza di tutti quegli autoveicoli non bruciati e con gli pneumatici ancora al loro posto era un segno inequivocabile che qualcuno era rimasto in città. Un grosso squarcio sulla facciata dell'ingresso dello stadio, provocato da un proiettile di artiglieria pesante, gli ricordò che lì, da molto tempo, nessuno più giocava a calcio. Presero la via dell'entrata principale, che era stata risparmiata dal furore bellico, e salirono le scale diretti all'anello superiore delle tribune. Udirono lontane voci femminili gridare qualcosa in una lingua sconosciuta e delle voci infantili rispondere con schiamazzi e risate. I suoni si facevano più nitidi man mano che salivano le rampe di scale. Arrivati in cima, uscirono all'aperto e si ritrovarono a guardare dalla tribuna più alta il campo da calcio. Era interamente occupato da tende di ogni tipo, le più grandi bianche con il disegno della croce rossa sul fianco, ma c'erano anche tende della mezzaluna rossa, tende da campeggio di ogni colore e dimensione. La maggior parte erano semplici tende da deserto, aperte sui lati, costruite con qualche palo e un grande telone. Da queste si vedevano uscire trottando frotte di bambini che rincorrendosi sparivano subito sotto la tenda più vicina, seguiti dalle urla degli adulti. Negli spiazzi fra le tende alcune donne trafficavano con pentole e attrezzi da cucina, fra fumi speziati e piccanti. Lungo il perimetro dell'accampamento si muovevano numerose persone vestite con pantaloni e camicia bianchi. Alcuni erano seduti a dei tavolini da viaggio davanti a computer portatili e parlavano con altre persone che in piedi di fronte a loro facevano ordinatamente la fila in attesa del loro turno. Altre persone in bianco si aggiravano fra le tende discorrendo con uomini in tipici abiti africani, fotografandoli e annotando cose sui loro tablet. Dall'alto la scena aveva un che di domestico. Non sembrava l'atmosfera di un rifugio per profughi, forse per le risate incessanti dei bambini e l'aria animata che aveva tutto l'accampamento. Ah, bene, meno male che mi sono ricordato di queste. Drago tirò fuori dallo zaino due lunghe cose pelose, una bionda e una più scura, e allungò quest'ultima a Mirko. Gli ZZ Top? Ma dai, ma sei fuori? Con questo caldo? Taci e indossa, o preferisci essere adorato? Dopo essersi appiccicato la lunga barba, Ocelot si calcò in testa il cappello da cowboy e aiutò Mirko a camuffarsi. «Sei un cesso», disse, squadrandolo bene. «Non ti riconosceranno mai. Vaffanculo e vai avanti tu». Drago ghignò e si diresse verso la scalinata che portava giù al campo dello stadio. I suoni si facevano più chiari mentre si avvicinavano. C'era anche più animazione di quello che gli era sembrato dall'alto e molte delle voci che udivano parlavano inconfondibilmente inglese. Nessuno sembrava far caso a quei due bizzarri cowboy barbuti che stavano scendendo le scale. Avevano appena messo piede sul campo che un urlo li raggiunse. «Yo, look out!» Mirko non capì perché si ritrovò improvvisamente ad abbracciare il terreno con la sensazione di essere stato investito da un rinoceronte. Fece in tempo a vedere correre davanti a sé una dozzina di piedi che sollevavano una coltre di polvere all'altezza dei suoi occhi. Drago lo tirò su per una spalla e lo aiutò a rimettersi in piedi. Rideva di gusto. «Ma che è successo?» Mirko si tastava la nuca fissando un vecchio sorridente e sdentato che gli veniva incontro porgendogli la mano. «Sorry, sorry, boys, sorry». Li salutò stringendogli calorosamente le mani come se li conoscesse da sempre. Li prese sotto braccio e si diresse verso la tenda con la croce rossa. Loro lo seguirono, docili. Entrarono nella tenda. Era un'infermeria con brandine per la maggior parte vuote, bacheche piene di medicine, lampade da sala chirurgica su altri tre piedi. C'era persino una poltrona da dentista completa di trapano e attrezzi. Lo sconosciuto, sorridendo, gli indicò due sedie di legno. «Wait, sorry, wait, please, ok?» Mirko e Drago si sedettero perplessi mentre lo sconosciuto spariva velocemente dietro un angolo. «Ha paura che ti sei rotto la testa?» «Ho paura che forse ha ragione, ma che cazzo era?» No, solo un pallone di stracci, forse rinforzato con qualche sasso. Ecco, al posto sbagliato, nel momento sbagliato, neanche il Devil può farci niente. Di che ti lamenti? Pensa se ti arrivava in faccia o nelle palle. Drago scoppiò a ridere e a sputacchiare i peli della barba finta che gli si impigliavano fra i denti. Mirko lo guardò e non poté fare a meno di ridere a sua volta, proprio mentre il vecchio stava tornando con un'infermiera in camice e cappellino bianco dall'apparenza scandinava, la pelle chiarissima e i capelli rossi raccolti in una coda. Dimostrava una cinquantina d'anni e Mirko pensò che se fosse stata 30 anni più giovane sarebbe stata una bomba. Gli sfuggì un «Ah, però!» «Dai, datti un contegno che adesso ti visitano», disse Drago. «Ah, italiani, è proprio vero che siamo dappertutto noi», disse lei che, nonostante il caldo e la polvere, appariva impeccabilmente immacolata. Mirko e Drago si guardarono e riscoppiarono a ridere come due dementi. «Sembra proprio che non abbiate subito danni dalla pallonata, o meglio così, ma è bene controllare. Chi di voi è il fortunato?» Mirko alzò la mano. Io sono molto fortunato. L'infermiera gli sorrise e gli esaminò con le dita la nuca. Il mio nome è Magdalena e questo signore si chiama Bashi. Siete anche voi dei volontari? Fa male qui? Chiese premendo il bernoccolo di Mirko. Sì, cioè no, sì, fa male, no, non siamo volontari, siamo solo di passaggio. Peccato. Ne aspettiamo una decina, ma arriveranno solo fra un paio di giorni. E con il caldo, sapete, i cadaveri, disse Drago spezzando l'incantesimo. Sì, sono ancora tanti. Abbiamo liberato le strade principali, abbiamo fatto quello che potevamo, ma c'erano quasi 3 milioni di persone a Mogadiscio prima. Ne sono rimaste poche migliaia. Chi non è morto è fuggito. Noi ci occupiamo di quelli che sono rimasti, quasi tutti donne e bambini troppo deboli per viaggiare o anziani che non vogliono lasciare i posti in cui sono nati. Come Bashi, constatò Drago. Il vecchio, sentendo il suo nome, gli rivolse sorridendo uno sguardo carico di secoli. Bashi è il più anziano qui. Il suo inglese è rudimentale. Credo che abbia troppe cose alle spalle e in testa per far posto a cose nuove, ma è una guida preziosa e conosco abbastanza bene il somalo da poterci parlare. Potrebbe chiedergli di raccontarci che cosa è successo a Mogadiscio, quello che ha visto con i suoi occhi. Magdalena sospirò e si sedette accanto a loro, indicando a Bashi di fare altrettanto. Sarà come ripiombare in un incubo. Spero non gli faccia male. Poi si rivolse al vecchio in una lingua semplice e melodiosa. Il vecchio l'ascoltò attento, aggrottando la fronte rugosa. Poi guardò i due e, annuendo, iniziò a parlare, mentre Magdalena, ascoltando, traduceva. «Non pensavo di riuscire ad arrivare a quest'età e non pensavo di vedere le cose che ho visto. I miei occhi hanno tanto da raccontare. Le vostre orecchie potranno ascoltare». Parlava lentamente, guardandosi le mani adagiate in grembo, gettando ogni tanto un'occhiata fugace ai due barbuti. Sembrò raccogliere le idee con un respiro molto profondo e lento. Poi continuò. «La vita non è mai stata facile per noi qui, ma ci eravamo abituati. Chi non ha nessuna aspettativa impara presto a essere grato di poter aprire gli occhi a un nuovo giorno. Quando niente ha un senso, tutto quello che tu vuoi è sopravvivere giorno per giorno, cercando di non farti ammazzare. Ho avuto molti figli e me li sono visti portare via tutti dalla fame, dalle malattie, negli ultimi anni soprattutto dalle armi. Fortunatamente alcuni nipotini sono riusciti a attraversare il fiume di morte e sono tutto quello che mi resta ora. Uno di loro è quello che ha quasi rotto la testa al Signore». Diede un'occhiata a Mirko, che con la mano fece un cenno per significare che non era niente. «Non è facile spiegare come si viveva qui. Sembrano passati anni e invece sono solo pochi mesi. La mia città era la terra dei demoni. Non è sempre stata così. Mi ricordo che un tempo eravamo poveri, ma non avevamo paura. Negli ultimi anni invece la paura ci era entrata sotto la pelle e dentro il cuore. chi non viveva qui per uccidere passava le giornate nascondendosi e aspettandosi il peggio. Le cose per me iniziarono a cambiare una sera che tornavo nel posto dove dormivo, una stanzetta dietro il negozio di cibi di mio fratello. Ero quasi arrivato quando qualcuno dietro di me mi afferra la spalla e mi gira verso di lui. Era uno di quelli che di solito vedevo nella parte ricca della città. Non potevo togliere gli occhi dal suo vestito. Costava come un anno di cibo per la mia famiglia. Lui era scalzo, aveva in mano le sue scarpe e me le porgeva pregandomi di accettarle. Io avevo paura, credevo che volesse giocare con me per poi uccidermi. Ogni tanto lo facevano i ricchi. Venivano a fare un giro nella parte povera e si sfogavano con noi di qualche cosa. A volte portavano le iene al guinzaglio per liberarle dentro le nostre case. Ci guardavano e ridevano quando scappavamo con i bambini in braccio. Così quella sera stavo per girarmi e fuggire, quando quel tale gettò veloce le scarpe ai miei piedi e corse via continuando a ringraziarmi. Capì che doveva essere ubriaco e corse subito a casa di mio fratello con le scarpe nuove, ringraziando il cielo per la mia fortuna. Anche il giorno dopo sembrava che ci fossero in giro più ubriachi del solito, gente strana che rideva da sola e che parlava di un nuovo Dio. Io non ero affatto contento. Qui gli dèi hanno sempre combattuto tra di loro e un nuovo arrivo non era rassicurante. Ma sembravano davvero matti. Dicevano che il nuovo Dio gli era apparso in televisione o lo sentivano per radio. Io non avevo neanche una casa fissa, figuriamoci televisione o radio. Rise brevemente e Mirko non poté evitare di fissargli i pochi denti rimasti nonostante cercasse di distogliere lo sguardo. Comunque non facevano male a nessuno, anzi, dopo alcuni giorni non avevano più niente perché tutto quello che avevano lo davano agli altri. Si sparse la voce che il nuovo Dio avrebbe parlato ancora in televisione dopo qualche giorno, anche se nessuno voleva crederci. Quando arrivò il giorno della riunione, come la chiamavano loro, c'era tutta la città che aspettava di vedere la novità. Io volevo solo sperare che fosse uno scherzo, una di quelle diavolerie che i bianchi amano tanto, anche se le scarpe che avevo ai piedi mi ricordavano che c'era qualcosa di vero. Eravamo nel cortile di una casa che uno dei matti ci aveva lasciato e avevamo portato il televisore fuori perché eravamo in tanti e in casa non ci stavamo. Mi sembrava di essere tornato indietro nel tempo, a quando qui si stava bene e con gli amici guardavamo le partite di calcio tutti insieme. Fece una pausa, sospirando, poi continuò. Scherzavamo e ridevamo. Alcuni si litigavano un posto. C'era persino da bere e ne approfittammo il più possibile. Poi in televisione apparve qualcuno e io lo riconobbi subito anche se non lo avevo mai visto prima. È stato come scordare tutto il resto e nascere di nuovo. Lo sapete anche voi come ci si sente. Mirko e Drago annuirono gravemente dietro le barbe. Quello che è successo qui dopo invece è stato terribile. In pochi minuti tutto era impazzito. Erano diventati altre persone. Chi in modo buono, chi in modo cattivo. Io sono andato nella mia stanza. Avevo bisogno di stare da solo. Provavo dentro di me la sensazione di scoppiare. Tremavo e non sapevo se fosse paura o gioia. Ora penso che fossero tutte e due. Credo di essermi addormentato subito, non ricordo molto di quella notte. Il mattino dopo sono uscito e ho visto le strade piene di cadaveri di tutte le età. Quasi tutti si erano sparati un colpo in bocca e solo i più fortunati erano morti subito. Ho visto uomini cercare armi cariche e quando non le trovavano, tagliarsi da soli le gambe con il machete e poi usarlo per staccare con un colpo netto il braccio libero mentre si rotolavano per terra. Qui la terra è sempre stata rossa, ma mai come in quei tempi. Era come se chi viveva di guerra avesse avuto una terribile fretta di fare la guerra a se stesso. I demoni li avevano posseduti per punirli. Comunque, dopo un po', capimmo che non erano pericolosi per noi. E un paio di giorni dopo non credo che ce ne fosse rimasto più uno vivo. In questo posto dove siamo noi adesso, proprio qui, succedevano cose molto brutte. Era un luogo di terrore. Ora invece è l'unico posto rimasto in città dove possiamo scappare dai ricordi. Dopo i primi giorni di follia le cose si calmarono e il problema principale fu trovare il modo per liberare la città dai cadaveri. I cani e le iene avevano iniziato a trascinare qua e là pezzi di corpi. Si litigavano i cadaveri facendoli a pezzi davanti ai nostri occhi. Iniziarono a essere aggressivi anche con i vivi. C'erano nuvole di uccelli neri che coprivano il sole e sembrava che tutti gli animali della foresta si fossero riuniti qui intorno per venire a sbranarci. Iniziamo a bruciare i corpi, la benzina non mancava. Ci furono roghi che durarono giorni. La notte non era mai buia, in qualunque direzione si guardava c'erano fuochi alti e gialli e un fumo nero che ci inseguiva ovunque cercassimo riparo. Ma finì anche quello, anche se purtroppo i morti erano troppi e non potemmo occuparci di tutti. Poi molte famiglie decisero di partire, chi per cercare qualcosa di meglio per i loro figli, chi per raggiungere parenti o amici. La città si svuotò in pochi giorni. Per noi che restammo fu come scendere all'inferno una seconda volta. La città era distrutta, bruciata, molti cadaveri ancora riempivano le case e in più puzzavano. Molti restarono ad aiutarci, ma eravamo comunque in pochi e per i più deboli era impossibile andarsene. Così decidemmo di radunarci qui per aiutarci fra di noi e non separarci. Con la radio e i generatori dello stadio abbiamo chiesto aiuto fino a che qualcuno ci ha sentito e il giorno dopo sono arrivati tutti questi angeli vestiti di bianco ad aiutarci. Magdalena sorrise accarezzando la guancia di Bashi. Sì, ora ci siamo noi. Molto presto saremo tanti in più. Non so se Mogadiscio rinascerà, dipende da cosa deciderà chi è rimasto. Per ora la cosa più importante è eliminare questo orrore dalla faccia della terra. La città sarà spianata e restituita il più possibile alla natura. Tacquero. Da fuori arrivavano le voci dei bambini che continuavano a giocare, incapaci di stancarsi. Faremo di più, disse Drago. Diventerà un giardino della natura. Magdalena lo guardò interrogativa. Mirko si affrettò a precisare: ci occupiamo di giardinaggio. Ah, giardinaggio, bene. Magdalena sorrideva titubante. Certo, dovevo capirlo con quell'aria da cowboy che avete. Grazie per la vostra offerta, ora però devo lasciarvi. Mi aspettano. Io sono una delle poche che parlano somalo e c'è sempre bisogno di me. Stiamo raccogliendo i dati delle famiglie per trovargli una sistemazione decorosa. Lei sta benone, avrà solo un bel bernoccolo domani. Se lo desiderate, Bashi si occuperà di voi, altrimenti sentitevi liberi di fare quello che volete. Però state attenti ai branchi di cani randagi. Sono stati quasi tutti allevati per i combattimenti e sono peggio delle iene. Vi aspetto con i fiori per il giardino, disse prima di uscire sorridendo dalla tenda. Da fuori veniva un allegro frastuono di strumenti tradizionali, canti, tamburelli e flauti africani. Mirko e Drago si alzarono, richiamati dalla musica, e uscirono dalla tenda seguiti discretamente da Bashi. Dopo il biancore delle pareti di stoffa, furono catapultati in un mondo di colori, suoni e odori. Ora che ne conoscevano la storia, l'accampamento svelava tutti i suoi meccanismi. Bastavano le facce della gente a raccontarne la storia e a rivelare il cambiamento che c'era stato. Parevano gli ospiti di un club mediterraneo sorto in mezzo alle rovine della città che li ospitava. Ragazzi e ragazze seguivano ballando i musicisti che camminavano fra le tende. I demoni se ne sono andati, disse Drago guardandosi intorno. Seguirono istintivamente il gruppetto di suonatori che procedeva tra la folla. Mirko era molto interessato al ritmo emanato dai semplici strumenti musicali e stava alle costole dei musicisti. «Mi sta venendo voglia di suonare! Dobbiamo farlo prima o poi, un grande mega concerto in universo visione, e chiamiamo chi diciamo noi, tanto nessuno oserà rifiutare!» Iniziò a ridere, unendosi ai ballerini da strada e saltellando in quella danza improvvisata. Bashi si fermò a parlare con un'anziana donna seduta all'ombra di un tetto di foglie di palma. Drago gli fece un cenno di saluto con la mano. «See you, man», disse. Bashi rispose con un festoso «Ok, see you» e un sorriso che sembrava un cruciverba ancora in bianco. Poi tornò a parlare con la donna. Mirko continuava a danzare con gusto, nonostante fosse ormai fradicio di sudore. Drago lo seguiva, contento di vedere l'amico catturato dalla musica come i vecchi tempi. Anche a lui mancavano la resi, la musica, i concerti, il divertimento. Osservava soddisfatto quel raduno del dopo Apocalisse, chiedendosi come si sarebbe evoluto quel mondo che aveva odiato e amato. Sapeva di non avere più molto da fare a livello globale. I nuovi comandamenti ormai erano stati recepiti, ma c'era bisogno di un centro di supporto per tutte le situazioni simili a quelle di Mogadiscio. Un unico centro globale avrebbe senz'altro facilitato ogni operazione di soccorso e coordinamento. Non sarebbe stata necessaria la sua presenza, gli bastava dare il via al progetto e affidare la cosa agli umani. Guardava Riviera chiedendosi se sarebbe stata una buona idea affidargli quel compito. Intanto si erano avvicinati ai tavolini dove le persone vestite di bianco erano occupate a inserire dati nei portatili. Passò dietro uno dei tavoli. Sugli schermi le immagini dei volti che i volontari avevano digitalizzato venivano associate ai files dei loro dati anagrafici. Su uno schermo si vedeva la mappa della Terra lampeggiante di simboli colorati. Drago capì che stavano tentando di riallacciare i contatti con chi se n'era andato. Una ragazza vestita di bianco gli porse un cesto di paglia pieno di frutti colorati. Drago si tolse il cappello e la ringraziò, sorridente, con un inchino. «Questo è il paradiso!» Mirko aveva visto la scena. Grondante sudore, con i vestiti appiccicati alla pelle ma senza segni di disagio, afferrò dal cesto una fetta di un frutto appariscente e appetitoso. «Sai una cosa? Mi hai convinto! Ne valeva la pena!» Addentò la polpa con voracità guardandosi intorno. «Ne valeva davvero la pena, mi hai quasi commosso, cazzo!» «Sono contento che la pensi così, non mi piace lasciare le cose a metà. Che ne dici, questi hanno bisogno di organizzazione!» Gli spiegò brevemente il suo progetto per un unico centro di soccorso, mentre Mirko annuiva silenzioso, e infine commentò: «Ho già in mente da chi iniziare. Si torna a casa?»